sono in acciaio inox e così devo mettere l'altra parte del traliccio col carrello e poi ci va il rotore in cima. E anche io ho fatto il carrello al basamento, al traliccio centrale, che l'ho costruito io, in scatolato, gliel'ho fatto in scatolato da 165x165 lungo 40, bugia lungo 60, più le cerniere fatte da me, fatte in acciaio, saldato acciaio ferro, io ho tutto, saldatrice, ho filo continuo, tutto. E mi ho fatto un bel carrello che aggancia al muro come basamento di antenna e poi ci sono quattro pezzi di scatolato da 80x80 che appoggiano all'antenna con la riscaffa bloccaggio. Quindi ho lavoro fatto bene, però ho capito questo tassello, secondo me questo tassello qua a me era difettoso oppure non so cosa sia successo. Guarda, a me mi era successo proprio montando la base del traliccetto, tassello chimico difettoso, allora si è piazzato la prima parte, ci sono due piastre, la prima piastra piazzata bene e perfetto, ho messo la seconda piastra, questo coso non ha legato il catalizzatore perché sono due prodotti quando metti il chimico, non so per quale motivo, e sono andato l'indomani ed era gelatina, non era dura, hanno dovuto smontare tutto, lavare, pulire tutto quanto, asciugarlo con la carta, con lo scottis in profondità e poi gli ho messo quello nuovo, con la barra filettata, io tassello non è vero e proprio, non ho messo delle barre filettate lunghe in modo che non c'erano problemi anche a inserirlo, quelle profonde sul cemento armato e non si muove più, si può troncare in due il traliccio, però la base non esce. L'unica cosa, mi sono pentito, siccome questo terrazzo c'era nei ferri per eventualmente sopraelevare, ce li abbiamo tutti tagliati per fare mettere la guaina, perché tanto non ci interessava sopraelevare, però uno era, sarebbe stato meglio lasciarlo così magari li saldavo direttamente un traliccetto di lì, perché io ne ho uno di quelli americani da 6 metri, 3 pezzi da 2 metri, magari mettevo un'altra antenna di lì, qualche direttiva magari per le VHF, io ce l'ho un'antenna, però avrei preferito magari metterla in un'altra posizione, comunque per il momento mi arrangio a quello. Riprendi Gabi, anche tu hai messo un'americana se non sbaglio, ho visto le foto. Sì, io ho messo nella grafia, ho messo 6 metri di americana. Si mette l'americana, poi nell'antenna VHF, se guardi dietro la grafia c'è un altro pezzo da 3 metri e c'è l'antenna VHF e poi va bene, avrò 150 metri di traliccio o 200 metri quadri fatti a traliccio tra americana, ring e queste cose qua, ma diciamo che per l'antenna ho usato quello vecchio che appendevamo, te l'avevo già spiegato, che appendevamo l'impianto, quindi non quello non mi serve più. Però dovremmo trovare una direttiva, una bella direttiva a base di libero la grafiole e solleverei anche di 12 metri di altezza, solleverei un bel traliccio, però un 40x40, perché questo usando un 30x30, un 30x30 adesso, ti metterò un bel 40x40 quadrato col carrello, il vericellino del vericello, diciamo, della torre, e perché tutto quanto su già cambiato è fatto. Quello si trova meglio, questo che c'è è triangolare l'americana. Sì, positivo, è triangolare, ma l'ho messa a forza triangolare, perché gli ho fatto le sicure, in pratica diciamo la punta del triangolo è rivolta verso il muro, bloccata a 50 cm. Da terra ci sono tre aliscaf e dietro nei triangoli ci sono le sicure, capito? C'è una sicura, una 30, una 60. Fissata al muro di dietro, perché non gli ho messo tiranti a questo affare. Però ho altri 12 metri di traliccio che non uso, ne ho altri 12 metri da 40x40 quadro, quello Litec, anche questo che sto usando, che ci ho montato adesso, un Litec, un traliccio che tiene 500 kg a metro, quindi quello non è un problema, con le uova, con le vetri, con le sicure, con l'omologazione, contatto, però vabbè, adesso non ho tempo, non ho possibilità di comprare direttiva. L'unica cosa che ho notato, non so per quale motivo, la Grazioli, i bracci, parliamo i radiali, la Grazioli li vedo molto vicini al traliccio, come me li hai messi così vicini? Beh, banca della, diciamo, lo staffaggio della Grazioli, e così proprio a livello proprio in pratica ci sono 30 centimetri, 34 o 35 centimetri di aggancio, e poi parte subito il basamento che va purtroppo quasi a toccare al traliccio, mentre col tubo di questa cosa non te ne accorgi se metti il tubo, mi segui? Infatti stavo dicendo, non riesce a inserirgli un tubo dentro, fargli una specie di gabbia e fargli un tubo di un paio di metri in modo che lo, per non interferire i radiali col traliccio. Prima era così, prima aveva 2 metri di spuntone, avevo fatto prima quando era a terra il traliccio, sempre così uguale, aveva 2 metri di spuntone, e era uno spuntone che aveva, era fatto con delle diagonali, lo stesso in alluminio, però ho intenzione di farlo perché tenuto addolcisce, però c'è anche un però che quando tira il vento la grazia riprende un pochino di vento, quindi la valle è proprio in sabbia, mi segui su un punto, aveva proprio il cimino 2 metri a triangolare, proprio fatto triangolare con il traliccio, poi andava ad addolcire, da 40 andava a 0. Ma l'americana tua cos'è? In alluminio? Sì, positivo, è tutto in alluminio. No, quello che c'è io è ferro zingato alluminio, bisogna stare molto attenti, l'importante è che sia bello sano, che non abbia osmosi, cioè materiali di ossidazione, qualche scheggiatura la parte anodizzata, perché l'alluminio è leggero, bello. Quanto è la base di triangolo? Ogni triangolo da quanto è? 30x30, no, l'alluminio è sano, l'alluminio è sanissimo, l'alluminio stava girando fino all'anno scorso, stava girando in struttura, l'alluminio è sano, è lucido, non ha nessun tipo di osmosi. Ancora la certificazione fino al 2025, non è una cosa colorata l'anno scorso, che ha fatto il collaudo, c'è anche di sicure dentro. Il fatto è che questa cosa del radiale, anche io stavo pensando, gli ho tolto lo spuntone e purtroppo così, però secondo me io lo abbasso, gli tolgo 3 metri e gli metto lo spuntone che gli altri 2 metri, sarò un metro più basso, però non c'è questo fastidio del radiale. Infatti te lo volevo dire io, meglio fare così. E come hai fatto tu a saldarlo? Ma scusatemi, il traliccio è appoggiato all'interno o fissato a parete? Il traliccio è fissato al parapetto del muro. E come hai fatto a fissarlo? L'hai costruito dalle staffe? Sì, te l'ho detto poco fa. Gli ho fatto il basamento con la cerniera, col ferro quadro 165x165. E poi alle staffe a muro, guarda, ti mando una foto, così la vedi. Dico, e come hai legato le staffe a muro al coso? Con che sistema l'hai bloccato? Mica l'hai saldato il ferro con l'alluminio? Assolutamente no, gli ho messo gli ali scaffa porta per le americane. Sono dei morsetti che si attaccano a porta alle americane. Forati, hanno il loro foro, hanno, diciamo, tutto. Tutto che ho fatto diventando sfera un'americana. Tipo le cravatte dei tubi innocenti, una cosa del genere. Non è proprio così, però è, il sistema è quasi uguale. Il sistema è quasi uguale. Guarda, ti mando il video che ha fatto mia moglie per prendere in giro e mandarla quando ho fatto l'impianto. E proprio si vede, se tu lo blocchi, lo zoomi, lo fai lo screenshot, vedi come è trattato a te. Scappa, ma è solo per quelli in alluminio, lo vendono anche per quelli, perché il mio è fatto in cosa, infatti io lo volevo saldare, ma se esistono queste staffe già pronte, i miei sono in tubo zingato, con delle trafile incrociate, dei diagonali, sempre a base triangolare. Sì, lo vendono tutto. Devi andare sul mercatino musicale e cercare devi scrivere Aliscaf Lightech. Da quanto è il tubo? Da 40 al tuo, 38? Non me lo ricordo, sinceramente non me lo ricordo. L'avevo preso, è andato mi sembra a Mocoro addirittura a prenderlo, di questo qua che faceva service, e aveva uno in alluminio più grosso, bello, però era troppo pesante, l'ho lasciato perdere. Allora questo qua in macchina sono riuscito a farcelo fare, l'altro ci voleva il cambio. Sì, sì, vabbè, secondo me ti mando, guarda, guarda com'era prima, guarda questa foto che ti mando, com'era prima quando era a terra. Guarda, è quello spuntone. Lo sto guardando adesso. Anche tu sei sul tetto qua, no? Pensavo fossi. Lo sto guardando, è bello grosso questo traliccio, non è uno scherzo, no? L'immagine da lontano non rende, invece è una bella bestiolina. Ma scherzi. Ma scherzi, questo qua è un traliccio serio, questo è un traliccio serio veramente, non è di quei giocati che ci sono per fare caraotto, questo è un traliccio che tiene 500 kg al metro, 500 kg al metro, a strappo, non è un giocato, l'hai visto come c'aveva lo spuntone? Sì, sì, io volevo fare una cosa del genere per coso, proprio per fissarlo, però se esistono già pronte magari sarebbe meglio, perché anche qua è saldare, lo metti e lo puoi anche smontare pure. Guarda, ti mando a vedere se ce l'ho nella chat, perché non me lo trovo qua nel telefono. Allora, sicuramente ce l'ho nel video che ti ho mandato un amico. Di quando l'ho fatto, vediamo un po', comunque è un lavoro fatto bene, vabbè, non è una cosa fatta così di punta in bianco, è un lavoro fatto con più figli, sto cercando del tuo video. E niente, no, il traliccio è bello schedulato anche, non è un traliccetto leggero, pesa 30 kg ogni verga di quel traliccio. No, lo sto guardando, è autoportante, poi ci puoi anche arrampicare sopra. Certo, io mi appendo sopra. Io mi metto sopra quando devo fare lavori, per esempio oggi per appendere la carrucola con l'Aristat mi sono appeso, sono salito su e l'ho messo. No, interessante, molto bello. Io pensavo fosse tipo quello che c'ho io, questo è come quello che mi stava facendo vedere, tipo un bel pesante, là. Questo sarà 40 per lato, quanto è questo? 30x30, 30x30, guarda. Ti sto girando un video che ho mandato a un amico, si vedono gli staffaggi, si vedono gli staffaggi dell'antenna, della piccola, della grande e delle televisioni. E qui non hai né problemi di spazio, tu puoi fare tutto quello che vuoi di qua. L'altra cosa, Mari, è preferibile fare in modo che l'antenna risulti un pochettino distaccata dal traliccio con un palo. Devo prendere, adesso devo tirarla giù e fargli quello spuntone, fargli quella, diciamo, quella punta da, che poi quella punta è 2 metri, che poi quella punta è 2 metri, non è neanche un giocattolino, quindi dovrà andare ancora di più a prendere, a influire sulle zampe, quindi dovrò rinforzare ancora di più le zanche a terra. Devo riportare ancora di più le zanche a terra. E vabbè, le farò. Però adesso devo chiamare quel tassellone. Ma che distanza c'è? Cos'è una X300 o l'antenna che c'hai dietro, quella con le VHF? Sì, è una X300, ci sono 5 metri. Come 5 metri? Da traliccio al palo della X300 5 metri? Sì, 5 metri, fondo. Ecco, sembravano molto, molto più lontano, se mi dicevi 15 metri, perché lo avevo dietro a casa, penso invece è l'illusione ottica forse. Sì, positivo, sono 5 metri. 5 metri tondi in diagonale, vedi, dal traliccio alla superficie sono 5 metri. 5.000 millimetri, tondi. No, perché se fosse stata un po' più lontano magari l'avreste utilizzato per distendere un dipolo, se devi mettere un altro dipolo che c'era un'altra posizione per attaccarti. Hai visto, non l'hai visto, te l'ho mandato nella foto tomata di notte il dipolo, la filare, non te ne sei accorto che era attaccato in punto al traliccio? Oh, non ci ho fatto caso, aspetta, adesso sto guardando questo video qua, mi vede che qua forse si vede. Quella 58. Qua ci sono due antenne, aspetta, che antenna è l'altra? Questa con questa specie di tripiede, che antenna è? Quella lì è una una GPS o GPS, cioè quella è anche la 60, una senza radiale. Tutto questo sto cercando, io ho capito come l'hai montata questa roba, sembrava, visto da sotto, sembrava tutta un'altra operazione, invece qua si vede bene. E questa la utilizzi, questa antenna qua, questa Sirio, che cos'è? La sto usando adesso. Adesso? Positivo, la sto usando adesso con Superstar. E la grazie Uri? A 4,50. Ah, non ce l'avevo un commutatore per vedere chi va meglio in certe posizioni. Io faccio così, me le metto tutti e due vicino e poi vado direttamente. La funzione al contrario, il commutatore, mi hai capito? Attacco due antenne e poi commuto le due radio. Sì, io ce l'ho. Sì, io ce l'ho. L'ho collegato all'ICOM. In pratica faccio ICOM, faccio la radio un'antenna. Faccio due radio e un'antenna, mi segui? Sì. Dimmi una cosa, ma la Grazioli che vantaggi c'ha rispetto a questa qua? Differenza è notti? È il doppio. È il doppio ed è più performante. Perché la Grazioli io non l'ho mai visto, ho visto soltanto le prove su YouTube, fanno le comparazioni, però è sempre pubblicità, poi bisogna avere la realtà dei fatti. Ieri notte stavo usando la Grazioli, ieri quando ci siamo sentiti stavo usando la Grazioli, quando tu mi senti le 4,50 c'è la Grazioli. Ma qua ti stai aiutando tu? Adesso sì, robe, ci mancherebbe di no. È per quello che ti stavo dicendo, perché a differenza del segnale non è notato più di tanto, infatti ho detto cavolo, come fai a dire che va meglio quella là e qua c'hai quasi lo stesso segnale di ieri, vuol dire che qua c'hai qualcosina di più? Sì, 100. Ah, e che cavolo, hai detto tutto, normale allora, no, come ho detto, no. Infatti, non riuscivo a capire la logica, ho detto, ma come fa un'antenna più piccolina, più in basso, a avere lo stesso rendimento della Grazioli, perché la Grazioli è una 5 ottavi. È positivo, no, 100, vuoi vedere la differenza tra cazzo? Aspetta, allora, guarda, ce n'è differenza adesso, ora. Già lo credo, da quasi 9 sali a 9 più 10 e lo superi. È positivo, positivo, però va bene, vedi che non è una cosa aggressiva, cioè io ti ripeto, dovevo prendere una cosa più grossa, però non si è fidato a spedirmela, quindi vabbè, problemi suoi. Sto usando un 747 con 2 watt di pilotaggio, 1,5 watt, anzi. Quindi potresti andare anche di più. Ma poi mi sta segnando 80 a picchi, ogni picchi a 100 in modulazione, perché gli sto dando pochi watt di ingresso, capito? Magari se gli aumento il watt, di ingresso, mi dai picchi negativi, magari parto con 100 watt e modulazione scende a 60, invece così magari 60, vedi, 70 vai a picchi a 100 quasi. E tanto non pensare che se ne hai 70 o se ne hai 100, 120 cambi qualcosa. Se ne hai 70 ne metti 200, sì che vedi qualche differenza. Se ne hai 200 e rapporti a 400, la notte è differenza. Ma da 70 a 100 non te ne accorgi neanche, almeno con lo smitter che abbiamo noi, forse con lo strumento, con il misuratore di campo che ti dai dB di coso, te ne accorgi, così non fai niente. Comunque va benissimo, il segnale è molto forte, stai andando alla grande. Dai, piano piano. Questo qua addirittura è alimentato con un alimentatore a luci da 15 ampere, mi l'ho preso da cinesi, quelli strani, e lui non fischia neanche. No, sta andando bene, perfetto. Tutto K. Dai. Andare. No, dai, posso, ogni tanto già mi piace usare il baracchino, ogni tanto volevo usare il baracchino, già è bello. Sicuramente avrò un'altra modulazione dalla casa, però il baracchino è bello. Ah, cosa? Danilo, lo conosci quello che aveva Macedo? No, non lo conosco. Io non conosco nessuno, guarda, io non è che conosco tanta gente, io conosco di per persona la conosco, vabbè, a Claudio che mi conosce da bambino, a Gianni dopo il rum, a Tino e a Giulio, non è come conosco tanti. No, perché anche lui è appassionato, grande SWL, gli hanno dato, lui mi ha dato uno strumento, un come si chiama, non accordatore, un wattmetro della, che cos'è questo, guarda che incrociati della ZG, quello con le VLU e l'LHF, gli aveva dato una cubica che mi aveva dato un amico, non l'avevo mai montata, ma è la grossa, la 27, è autocostruita, ma si sta divertendo, quest'estate si è fatta a porco, mi ha fatto vedere il video cosa ha collegato con quell'antenna micidiale. Io non l'avevo mai provato perché me l'aveva dato un amico, ha detto tieni a prendertela, fatta con degli, come si chiama, dei ferri ad angolo in alluminio, poi aveva messo le barre a canna da pesca, ma bella grande, mi ha fatto vedere il lavoro che ha fatto. Lui abita nella zona vicino, per andare alla Budi Budi c'è una rotatoria di lì dove c'è, passa il treno, in quelle zone lì, ma posso dire, ha fatto vedere anche lui il bel lavoro, anche lui appassionato, è un tralicetto, ci ha fatto, ha messo su questa antenna spettacolare, per cui se ti volete una direttiva risolvi tanti problemi, se poi c'è anche la possibilità del motore, a lui gli avevo buscato anche un motorino, però di quelli leggeri, perché non è che vanno tanto bene quando c'è un po' di peso, se c'è il vento devi mettere un reggispinta, se no lo crepi, a me mi sei crepato subito. Di nuovo a te. Io ho dei motori, ho un paio di terzi mobili di Martin, delle 1200. Lo sai quelli lì cosa tengono? Delle terze mobili, delle luci, delle vecchie terze mobili, delle luci, ho due motori di quelli, che vanno a 220, cioè se voglio mi faccio la modifica, lo metto su e mi sta pagando proprio l'attacco a 38. Sono motori, quello che pesa di quelle luci è il motore, ne ho due di quei motori lì. L'unico problema è che la velocità, le voglia di velocità, ma quello lo in mano l'amico me lo fa. Sì, me la vorrei costruire una bella antenna, però mi piacerebbe non metterla sul tetto ma fare un basamento in cemento 2x2, diciamo da 2 metri per 2, profondo 80, tirare su 20 metri di traliccio e metterla lì sopra, capito? Una bella direttiva, una bella antenna, una, non lo so, un qualcosa di serio, ci vuole un progetto. Già lo so, io ce l'ho una direttiva, ne avevo preso una, tre elementi per la 27, l'avevo montata e mi sono divertito, però c'è il discorso, se riesci a montarla in verticale è anche meglio, perché l'avevo montata in orizzontale, e poi ne ho un'altra, quattro elementi, che non so se uso utilizzarla per metterla per i 10 metri e metterla nel rotore della, di quell'antenna che dovrò montare, quello della IAE sul 450, il motore, il rotore, oppure dedicargli un tralicetto leggero e metterla sopra di lì. Adesso devo vedere, adesso comincia la stagione, la prima cosa che mi interessa è mettere quella della quella Spider, la cubica, che con quella c'era divertirsi. Ce l'aveva Walter, non so se lo conosci a Walter, e l'aveva montata per un, forse non l'ha neanche montata quella che lui c'ha mega impianti, però se l'aveva acquistata per montarla su un altro traliccio, poi aveva fatto altre cose, però tutti quelli che la conoscono dice che è un'ottima antenna. Adesso vedremo le prestazioni, perché come sapete la stagione qualche canto di nuovo lo voglio fare. Ieri ho fatto l'Australia, la prima volta che faccio un posto così lontano, perché non ho grosse potenze, almeno per il momento non ho grosse antenne, così tanto per iniziare già va bene. Che frequenza fa quell'antenna? Non ho capito, scusa? Che banda fa quell'antenna? Fa 10, 20 e 15. Ok, quindi la posso usare. Ma stai parlando della cubica o della quella direttiva a 4 elementi? No, della cubica. È certo che la puoi usare, si può accordare benissimo, è enorme come antenna, però non è un giocattolino. Sì, guarda, mi sembrava a me la cosa, ma ne vedo un bel. Io con 7000 metri di terra, ma secondo te quando ci metto io robe a tirarmi su 20 metri di traliccio per fare quella cubica, secondo te il tempo massimo che ci posso mettere quant'è? 5 ore, se mi fanno il basamento in cemento, non so, c'è lo secondo socio, me lo fa mezza giornata. Io ci metto 5 ore a installare tutto, ma la 5 ore veramente, perché io non ho paura dell'altezza, io prendo e salgo sul traliccio noi quando facciamo le strutture, io prendo sago sopra le strutture, sopra sopra le coperture, a me non me ne frega niente, io salgo anche a 30 metri, con le cinture tutto salgo a 30 metri, non ho problemi, mi piazzo l'antenna su, se c'è uno sopra che mi, sopra mi passa la roba, che me la potrei passare anche mia moglie, salgo su a 20 metri, a 30 metri, a quanto decido di farlo, perché poi mi piazzo il traliccio su, non è che devo piazzare il traliccio, prendo il salgo e mi piazzo il traliccio, vabbè. Tanta roba, proprio per quello non ho problemi di niente, proprio non ho problemi di niente. Certo, sei nel campo degli spettacoli a voglia. No, c'è anche Antonello, lo conosci, però non mi viene il cognome, che lavora anche lui in questi coso, che piazzano sempre impianti per concerti e cose del genere. Però non mi ricordo, cioè il fratello tipo suo lavora alla Ferrari, era il meccanico di coso, di come si chiama, quello il più forte che c'è alla Ferrari, non Science, l'altro fa Napoli, non mi viene il nome. No, Schumacher, no, quello di quest'anno, va a Napoli, non cacchio, c'era sulla punta della lingua, uno è Sainz e l'altro è non la seguo la Formula 1, non la seguo. Antonello, sicuramente lo conosco. Sicuramente lo conosco. No, io mi appendo, ma io vi porto su 13 a spalla, 13 altrimenti mi porto alla spalla e me li installo su. Faccio le tratte orizzontali se c'è da fare cosa. Capitato anche prima della serata, 10 minuti prima della serata, hanno finito male le luci, hanno magari ad esserci l'impianto, ha preso la struttura a, diciamo, a 10 minuti, ha preso lì, ha preso la parte, ti ho sentito proprio basso Gavì, quasi non si sentiva la radio. Adesso si sente? Ehi, adesso sì. No, niente, questo microfono domani lo devo aprire, domani notte mi apro questo microfono, devo vedere un po'. Ho detto che prendo io quando sono in serata, con la mia cintura faccio quello che voglio, salgo anche salgo a 12 o 15 metri a fare il lavoro quando non fanno le luci, quando magari c'è qualche cavo che si che può essere usurato, la gente mi guarda e dice questo è scemo. Non so, poi quando hai esperienza di cosa, però se devi fare il traliccio fatti una bella base in cemento armato, non andare in economia, farla bene, il ferri sotto gli fai un basamento, una fondamenta ben fatto, per cui un domani anche vuoi mettere tutto quello che vuoi ce l'hai, senza economia, se c'hai come mi ha detto il tuo suocero che ti dà una mano, fallo, così c'è pronto per fare qualunque cosa e puoi mettere anche antenne importanti e ti puoi divertire, perché visto che sei grande appassionato c'è la possibilità di farlo, è bene farlo. C'erano anni fa, vendevano queste antenne americane, Moonraker si chiamavano, erano delle cubiche, le facevano a 2, a 3 e a 4 elementi, ma avevano dei guadagni da paura, cioè ci mettevi un bel rotore e li giravi, pum, e sparavi potenze da paura, guadagni da paura. E che non so se si trovano più quelle antenne, se no bisogna trovare qualcuno che se le fa costruire, trovare i materiali. Ok, ancora un paio di passaggi e poi dovrò interrompere, Gabi, ti riprendi? Sì, no, io adesso interrompo perché domani mattina la sveglia, magari anche, cioè sicuramente anche per te, ma per me domani mattina è fresco, devo ancora sistemarmi i cani, io non c'ho due cani, non c'ho due leoni. E adesso prendo anche, faccio il passaggio e chiudo perché altrimenti domani è critica. E piano piano, io volendo c'ero anche già il basamento in cemento, però non so quanto sia, cioè non so, è un basamento fine del piazzale davanti al garage, però è fine. No, però voglio mettere l'altra fila da 22, ora ho una ventina di trafile da 22, belle, alte 2,50 m, che voglio fare con quello, no, poi uno suocero un artista, succede, ma è un muratore, un artista, è un maestro, quindi si dico, è un po' pignolo, cioè, ma si dico devo fare questa cosa qua, tutto sta a fare lo scavo, perché se faccio lo scavo lo faccio un metro per due, e gli metto, è una bella antenna, gliela metto. Sì, perché ho 20 metri di traliccio che potete usare tranquillamente, il 40x40 quadro, non triangolare, non quadrato, il 40x40, sempre con il colore, la light, con tutte le, dai, col cervello che sale, con, esce bello, una bella direttiva. Insomma, vorrei pure che ci volesse la luce in punta. Attenzione alle zone, secondo anche zona 6 dopo i 15 metri se lo mettono obbligatorio, se non c'è visto, se passa qualche elicottero di quelli di soccorso, quelli che vengono adesso del 118. Vabbè, Gabi, dai, ci sentiamo se coincide domani o al più presto, dai, ti saluto, grazie delle informazioni del QSO, ci sentiamo presto, ciao ciao, buonanotte e buon lavoro per domani, ciao ciao. Ciao Roberto, buon lavoro anche a te, alle prossime, sono sempre a radio dopo cena. Ciao, ciao, ciao.